edizione. Cantami, o isola, degli antichi eroi e delle loro gesta, sì che le tue parole accompagnino il loro ritorno. Cantami, o isola, Zapping di celebrata TV anche questa mattina per cominciare questo. Eccolo, è stato l'avvio ieri sera della nona stagione dell'Isola dei Famosi, la prima senza Simona Ventura. Oggi vedremo quanto avrà pesato sugli ascolti o meno la sua assenza. Ma quello che vogliamo farvi ascoltare sempre dallo Zapping TV di ieri sera per aprire questa giornata con prima edizione è Gli Intoccabili, invece sulla 7, puntata dedicata ieri sera alla finanza vaticana. In una sola operazione ci fecero perdere 2,5 milioni di dollari. È una denuncia clamorosa, senza precedenti nella storia delle finanze vaticane. Ma di cosa si occupa questo comitato finanza e gestione? Come gestisce i soldi dei fedeli? A parlare è uno dei banchieri, consulente del Vaticano. Voi decidevate come investire? Come investire, quanto dare a Radio Vaticana, se si cambiano, non so, poi io era una gran... delegavamo molto. Ma decideva il cardinale o decidevate voi? Sostanzialmente decidevamo noi. Poi, se il cardinale era interessato al cambio delle divise, non gli andava bene che si cambiassero le divise, diceva all'aiolo, firmami le divise, e l'aiolo firmava. Chi sono i banchieri del Comitato Finanza e Gestione? Gli uomini che, secondo Viganò, dovrebbero salvaguardare le finanze vaticane e invece sono risultati fare più il loro interesse che i nostri. Ed ecco l'assaggio dallo Zapping TV di ieri sera. Tra poco invece le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Ed eccoci dunque alle prime pagine dei quotidiani. Buona giornata ancora, buon giovedì 26 gennaio da Anna Migliorati. Siamo prontissimi con i quotidiani di oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che fa una sorta di due aperture. Comunque la notizia che trova spazio in apertura sul Corriere della Sera è lo sciame sismico, il terremoto che tutti ieri abbiamo sentito, con epicentro in Emilia, magnitudo 4.9, ma un allarme che è arrivato fino a Genova, Torino e Milano, dove sono state anche evacuate scuole, uffici. Molti di voi l'avranno sentito. Scossa di 8 secondi, la paura arriva al nord. Così oggi il Corriere della Sera. Troverete anche un'immagine che però ci rivela anche un'altra cosa, cioè che il terremoto ieri non ha riguardato solo noi, ma è stata una vera e propria catena di scosse. Dall'Europa al Medio Oriente, in 24 ore sono state decine i terremoti che hanno riguardato anche appunto la Turchia, la Grecia, alcuni paesi del Medio Oriente, qualcosa anche in Francia. Tutto nel giro di 24 ore, una scossa che ha interessato un intero angolo del globo. Ne parleremo più avanti, già vi dico, ve l'abbiamo detto anche in GR24, ve l'abbiamo già detto che comunque la notte è stata tranquilla e questa già è una buona notizia. Taglio centrale invece del Corriere della Sera, dedicato al fisco. Al fisco dedicano l'apertura oggi molti quotidiani. Fisco più facile con un decreto, domani il provvedimento che cancellerà 430.000 norme. 430.000 è il decreto semplificazione a costo zero annunciato dal governo Monti, la fase 3, siamo arrivati al terzo step annunciato dal governo. Tra le novità in arrivo c'è anche il pane fresco la domenica, e questa è una delle dei mille tasselli che ci sono in arrivo. Meno agevolazioni è un'altra delle questioni che ci saranno, dovrebbe essere semplificata anche la dichiarazione dei redditi. Roma, scontri e feriti, l'altra immagine che trovate sempre sul Corriere della Sera, e poi ne parleremo tra poco anche le riforme. No ad altri soldi, dice la Merkel, Monti vede una via d'uscita dalla crisi. Questo quello che pare arrivare dall'indicazione del forum internazionale in corso a Davos. Il Messaggero, scoperti i furbi del fisco, anche qui si guarda al fisco ma da un altro punto di vista. La finanza ha denunciato 18.000 persone in un anno, 18.000, con un danno erariale per 3 miliardi, dipendenti statali con il doppio impiego e finti poveri. Così il Messaggero, anche qui l'immagine della protesta dei pescatori con scontri e feriti ieri a Roma, e poi a centropagina il lavoro non sia un privilegio, Monti che parla in Parlamento e dice ora le riforme, e la Merkel in Europa non solo austerità. Stop ai manicomi giudiziari, anche questo vi segnalo sempre dal Messaggero, il Senato approva il decreto svuota carceri della Severino. La Repubblica, fisco i 18.000 super truffatori, ecco il dossier della finanza, rubano allo Stato. Il rapporto intanto di Banca Italia, famiglie sempre più povere, 11 anni di stipendio per comprare casa, così. La stima della Repubblica, per qualcuno magari ce ne vorrà anche qualcuno in più, però il dato positivo sono sempre Monti e la Merkel che ora dicono ce la faremo. La protesta continua intanto a centropagina sulla Repubblica, scontri e ferite a Roma dopo i tir, la rivolta dei pescatori davanti alla Camera, e al forum di Davos, appunto, da cui vi dicevo sembrano arrivare almeno le prime indicazioni di ottimismo, speriamo che sia così, Nobel economisti riuniti appunto in Svizzera perché sull'Italia torna la fiducia. Ieri lì proprio ha parlato la Merkel, è atteso anche Cameron, però l'idea che sta arrivando dai primi interventi è che segnali di fiducia dovrebbero esserci. Terremoto spaventa il nord, tutti in strada, scuole evacuate, anche il l'immagine che trovate sulla prima pagina della Repubblica, molta paura, scuole chiuse, molte persone scappate in strada, l'epicentro è stato in Emilia. Il Sole 24 Ore, già vi dico che ieri abbiamo parlato anche noi di Telefisco, l'appuntamento ormai atteso del Sole 24 Ore. Quanto mai quest'anno, nell'anno delle cinque manovre, ci si aspettava un boom, è stato davvero un boom, sempre più attenzione per le ultime novità fiscali, record oltre 100.000 professionisti ieri nelle 156 collegate per l'edizione 2012 di Telefisco. Il Sole 24 Ore, che anche qui riporta a centropagina la notizia di Angela Merkel, riforme per crescere, e il leader tedesco che dice non solo rigore, ora azioni per creare lavoro e monte. Si vede l'uscita dalla crisi. Apertura però del Sole 24 Ore dedicata alle pensioni. Intesa su più fondi. Sigarette più care, tra l'altro, in arrivo, dice il Sole 24 Ore, per garantire esodi anticipati e precoci. Oggi ci sarà la fiducia alla Camera, ma al Senato la partita è ancora aperta. Prorogati intanto i crediti d'imposta al Sud e si va verso ticket progressivi. E poi le relazioni, tra gli altri, del direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, che dice la priorità è la semplificazione. Domani dovrebbe, ne parleremo, arrivare questo famoso decreto semplificazioni del governo. Altre segnalazioni sempre dalla rassegna stampa prima di passare ad altri temi, come sempre io vi ricordo poi alle 7:20 Alessandro Milan andrà anche nelle pagine interne, oggi ci sono molte cose interessanti e curiose. Però qualche segnalazione ancora abbiamo tempo di farla, e allora fondo pagina del Corriere della Sera, la doppia poltrona del ministro Gian Antonio Stella, che non manca mai di fare le pulce, deputati, senatori e ministri, punta ancora l'attenzione su Corrado Passera e dice dopo più di due mesi Profumo è ancora presidente del CNR che controlla. Ecco appunto la doppia poltrona del ministro, come ci ricorda puntuale Gian Antonio Stella. Ma c'è un'altra notizia che colpirà molti di noi da vicino, chi lavora e magari fa una pausa caffè. Ebbene, sulla Repubblica sentite un po', in un'azienda di Bergamo scoppia la guerra della pausa caffè. Cosa succede? Che l'azienda ha dato un diktat dell'azienda svizzera: in pausa caffè non più di due per volta. È un'azienda tedesca con una sede anche in Italia, appunto vicino a Bergamo, e ha mandato questa circolare ai dipendenti dicendo se volete prendere un caffè non potete mai andare più di due per volta, se c'è già altre due persone la terza deve aspettare, comunque mai più di due per volta, di sicuro farà discutere. E noi però coi quotidiani d'edicola ci fermiamo qui, ci torneremo più avanti a Radio 24 perché invece vogliamo parlare anche d'altro. E allora torniamo nel comune che è stato l'epicentro ieri della scossa di terremoto più forte, dicevamo uno sciame sismico che è continuato fino alle 19 di ieri. No, ovviamente è impossibile prevedere quel che succederà, ci sono state moltissime, dicevamo, scosse di terremoto, dicevamo col Corriere della Sera in 24 ore un po' in tutta l'area del Mediterraneo. Fatto sta che oggi diverse scuole dell'Emilia Romagna e della Lombardia resteranno chiuse, alcune semplicemente per accertamenti, una è stata dichiarata inagibile a Milano, ma il comune peraltro ha precisato che era una scuola che aveva già dei problemi. Ecco, però in tutta questa situazione sembra quasi lanciare un messaggio quantomeno di ottimismo il vice sindaco di Brescello, il comune appunto epicentro del terremoto di ieri, Giuseppe Vezzani, lo ha sentito Valeria De Rosa. Perché noi in realtà non siamo abituati a questo tipo di esperienze, terremoti da noi ben difficilmente, è una zona che è stata classificata sismica solo recentemente da qualche anno, ma perché ormai è tutto il territorio italiano così, quindi c'è stato un grande spavento perché appunto questo un boato, rumore, prima ondulatorio, poi sussultorio, quindi veramente fortunatamente è durato poco. Ecco, 4-5 secondi, però l'intensità è stata veramente forte, si è sentita anche piani bassi, anche piano terra, e quindi tutti i cittadini sono un po' usciti per le strade, ecco, c'è stata una grande paura. Devo dire con grande soddisfazione che per esempio l'evacuazione delle scuole è andata benissimo, molto bravi, e questo ci conforta parecchio. Ecco. Come ha reagito poi la cittadina? Superato un po' lo shock iniziale, anche così in municipio ci siamo subito organizzati, subito prima i sopralluoghi alle scuole, poi gli edifici pubblici, dove fortunatamente non abbiamo ritrovato, diciamo, criticità importanti. Ecco, qualche problemino ce l'abbiamo con le chiese, a cominciare da quella parrocchiale, quella della piazza, quella famosa dei film di Peppone e Don Camillo, che è stata transennata perché sono caduti degli stucchi, dei calcinacci, e devono essere fatte delle verifiche statiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici. Per la notte avete stabilito qualche regola particolare? O... Il messaggio da dare è quello di tranquillizzare un po' i cittadini. Certo, quando si ha a che fare con i terremoti, noi siamo abituati alle emergenze delle alluvioni, avendo il Po a poche centinaia di metri dalla piazza del paese, ma quello è un'altra storia, insomma. Io penso che sia fra le tante cose che ci sono, così che magari a volte si storce il naso perché non funzionano le cose così, non dico nel nostro comune, ma nella nostra zona abbiamo avuto una prova che intanto gli edifici, così dire, non è che siano incrollabili, però sono piuttosto sicuri, quelli dove, perché ospitano per esempio dei minori o anche gli uffici pubblici, e poi che la gente forse ha una certa consapevolezza che di fronte a fenomeni del genere, pur inattesi e pur non essendo abituati, comunque ha mantenuto un certo controllo di se stesso, e questo aiuta molto le istituzioni anche nel programmare le cose, perché significa che il lavoro che si fa, le esercitazioni che si fanno, insomma, qualcosina rimane, ecco. E insomma, questo se non altro il dato positivo. Vi dicevo, comunque è stata una notte tranquilla. Prima edizione. È il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Un tempo si chiamavano manicomi criminali, a metà degli anni 70 sono diventati ospedali psichiatrici giudiziari. In Italia ne esistono 6 e ospitano circa 1500 detenuti. Ce ne parla Cristina Carpinelli. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, alcuni senatori di una commissione d'inchiesta fecero un blitz, portandosi dietro le telecamere all'interno di alcuni ospedali psichiatrici giudiziari. Quello che stiamo per farvi sentire è l'estratto di quelle registrazioni. Una disperazione esplosa alla vista dei senatori. Era la prima volta che queste persone, questi detenuti, ricevevano una visita. Ci vengono al Senato a farli chiudere questi posti. Ci dovete mettere a lavorare. Io non so pericoloso. Sono innocente, giustizia. Fate uscire l'Italia dove è finita. L'Italia dove è finita. Perché l'avete chiuso qua dentro? Fatelo uscire. Vieni, vieni, calma. Sto calmo. La gente ha paura di parlare. Io non ho paura, la televisione, portatemi a Bruno Vespa, portatemi alla porta a porta. Mi hanno chiuso qua dentro a morire, giustizia. Ci sono le guardie che picchiano i ricoverati, approfittano, manca tutto. Se potete aiutarci a sgombrare da questo posto, perché io personalmente non ce la faccio più, con questo è tutto. Signore del Senato, fatemi giustizia, fatemi uscire da porta. Un momento, papà, vieni a salvare, papà. L'avevo detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco. Ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo, ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati. Quello che non possiamo farvi vedere sono i visi di questi uomini finiti in un ospedale giudiziario, spesso per questioni minuscole. Ignazio Marino del PD è uno dei senatori presenti al Blitz. Racconterà nella trasmissione Rai presa diretta di aver incontrato diverse persone accusate e detenute per reati minimi. Se si viene riconosciuti incapaci di intendere e di volere, non si ha un processo, si viene chiusi in uno di questi 6 lager e poi si viene prorogata la misura cautelare di sicurezza, viene prorogata di 6 mesi in 6 mesi, a volte anche per periodi più lunghi, e si arriva a quel termine detestabile di ergastolo bianco. Per ora è tutto, il reportage integrale sugli ospedali psichiatrici giudiziari andrà in onda oggi nell'edizione di Italia in Controluce delle 13.30. Grazie ad Alessandra Tedesco. Ieri, ricordiamo, il Senato ha approvato il decreto svuota carceri della Severino, dando anche lo stop ai manicomi giudiziari. Dopo la decisione di ieri del Senato, la parola passa alla Camera, che dovrà approvarlo entro il 20 febbraio. Quindi naturalmente torneremo a parlarne. Ma ora con Prima Edizione parliamo anche di un altro tema. Sentivamo l'incontro ieri sera tra Monti e il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, l'appello allo stop alle proteste dure. Ma tant'è, lo sciopero dei tir disagi già li ha provocati. Ieri siamo andati con Prima Edizione in un grande mercato generale per vedere che succedeva, se la merce stava arrivando. Il 70% in meno di prodotti sui banchi, così avete sentito ieri, ci hanno raccontato. Il CODA ha denunciato ora anche il forte rischio di speculazione sui prezzi legate allo sciopero dei tir. E allora io questa mattina saluto Sara Paraluppi, Centro Studi Coldiretti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. La prima domanda già è, sono aumentati i prezzi, era necessario aumentare i prezzi, è necessario aumentare i prezzi? No, non è necessario aumentare i prezzi, si rischia in queste occasioni un comportamento non corretto e non adeguato nei confronti dei consumatori, con magari la possibilità o la speranza di centellinare la merce per cercare di capire quanto si riesce a conservarla e quanto tempo si riesce a portarla, per quanto tempo si riesce a portarla sui banchi, soprattutto dei supermercati. È chiaro che sta scarseggiando, perché ricordiamo che l'86% dei prodotti, tra cui quelli agroalimentari, viaggia su gomma in Italia, e quindi sicuramente una percentuale altissima. E i problemi maggiori passano per i prodotti freschi e freschissimi, quelli che hanno breve durata, quelli che devono arrivare in tempi rapidi sui banchi dei supermercati per poter poi essere disponibili. Però voi stessi, come Coldiretti, dite in questo momento non è necessario ancora aumentare i prezzi. No, non è necessario aumentare i prezzi, proprio perché i prodotti sono disponibili in campagna, sono disponibili su tutto il territorio italiano nelle nostre aziende, per cui ci sono, non che manchino, non sono presenti nei supermercati, perché non riescono ad arrivare. Magari quelli a chilometro zero è più facile trovarli. Tra l'altro oggi voi li distribuirete anche in alcune regioni italiane. Sì, in effetti, ricordiamo una cosa, che la difficoltà riguarda i lunghi trasporti, che nei mercati contadini e nei mercati di campagna amica i prodotti sono disponibili, perché sicuramente i piccoli produttori riescono, se i camionisti li fanno passare chiaramente, a raggiungere, se non altro nei centri piccoli, ma speriamo anche nelle grandi città, quelle piccole situazioni in cui il mercato si possa fare. E in questo caso sicuramente i prezzi non vengono aumentati. E quindi questo per noi diventa un elemento di fondamentale importanza, insomma. E magari per scoprire anche delle realtà diverse. Ma devo dire che ieri è stata una grande sorpresa, perché sia a Roma che a Milano, e oggi si replicherà a Venezia, a Torino e anche a Bari, abbiamo distribuito i prodotti delle aziende che non sono riuscite, sono chiaramente prodotti freschissimi, a portarli nei mercati generali per il blocco del trasporto, e molta gente ha risposto, abbiamo dato questa comunicazione, ha risposto positivamente, soprattutto l'abbiamo fatto verso le classi meno abbienti, per gli anziani o per le persone che hanno redditi che non consentono loro di poter fare una grande spesa, e c'è stata una grande attenzione da parte di tutte queste persone. Abbiamo dato in beneficenza di fatto questi prodotti. Lamezia, Cosenza, Venezia, oggi sarete in altri, sì, in altri, sì, luoghi, in altre località. Prodotti di quel posto, dati in quel posto anziché trasportati. Questa è stata la vostra risposta allo sciopero. Ricordiamo una cosa, che adesso le aziende agricole che non riescono a portar fuori i loro prodotti dalle aziende proprio perché il trasporto sta mancando, hanno una doppia perdita. Uno, non riescono ad arrivare fisicamente ai mercati generali, quindi non hanno il reddito di quel prodotto. Due, essendo prodotto deperibile, devono smaltirlo. E quindi devono anche spendere ulteriormente per riuscire a smaltire quel prodotto. Una cifra voi l'avete data del costo di tutto questo? Beh, quotidianamente ogni regione ha fatto una sua valutazione. Siamo attorno ai 50 milioni di euro il giorno che si rischiano di buttare via. Se oggi ancora i tir saranno fermi, altri 50 milioni di merce verranno buttati, dico proprio buttati, perché laddove non c'è la possibilità di fare una serie di beneficenza come abbiamo fatto ieri e come rifaremo oggi, chiaramente sono prodotto fresco, vengono, si butta. Esatto, per forza di cose. Il latte fresco, per dirle, ha una scadenza a tempo molto limitato. Le verdure tipo insalate più di tanto chiaramente non possono rimanere in giro, la frutta molto fresca. Queste sono le difficoltà maggiori, insomma. E quindi non c'è altra soluzione. Grazie nel frattempo per essere stata con noi. Ribadiamo ancora, grazie, Col Diretti dice non è necessario per ora aumentare i prezzi. Sara Paraluppi, Centro Studi Col Diretti, buona giornata. Voliamo in Svizzera, qui dai mercati italiani alla grande economia invece. Saluto anche l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Vittorio, pare sia arrivato un po' di ottimismo anche dai grandi economisti mondiali, dico pare. Cominciamo a sentire la grande protagonista ieri sera a Davos. Eccola, Angela Merkel, la cancelliera tedesca, pur non essendo in sintonia con l'Italia sul fondo salva stati, però qualche segno di ottimismo dal forum internazionale di Davos l'ha dato sul futuro dell'economia. Poche ore prima, anche a Roma, un altro segnale di ottimismo era arrivato da Mario Monti. L'impressione che ho potuto trarre da questi incontri e dalle vicende degli ultimi giorni è quella di un quadro in evoluzione, in cui i contorni di una possibile via d'uscita dalla grave crisi che ha colpito l'Europa cominciano a prendere forma. Alcuni tasselli del mosaico lentamente cominciano ad avvicinarsi al loro posto. Prima edizione. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore. Abbiamo sentito la Merkel, abbiamo sentito Monti. È davvero una piccola goccia di ottimismo quella che arriva dal Forum Economico Internazionale di Davos su questa crisi? Sì, anche se bisogna dire che la parte più importante è che c'è una differenza tra le esigenze e i tempi della politica, che sono lenti, e le esigenze del business, che invece richiede soluzioni più rapide e tempestive. questo è il vero problema che sta emergendo e si sta discutendo soprattutto anche sulle nuove regole del sistema finanziario dopo la crisi. Ecco, da un certo punto di vista facciamo anche un'altra premessa, è abbastanza bizzarro la discussione che avviene a Davos, perché molti hanno sempre detto, beh, lì ci sono gli economisti che la crisi avrebbero dovuto prevederla prima. Fatta questa premessa, però ora le richieste sono molto nette e indirizzate, come dicevi, alla politica. Come è stata accolta ieri la Merkel? In un modo abbastanza cauto e prudente. Il business richiede soluzioni rapide e dopo due anni la situazione, diciamo, dei debiti sovrani è ancora in cerca di soluzione. Addirittura si parla di un nuovo problema con il Portogallo, dove ieri i credit default swap sono saliti a un nuovo record. Ecco, qui veramente il business vorrebbe una soluzione più rapida di queste soluzioni che non hanno ancora trovato appunto stabilità. In un'intervista questa mattina sulla stampa Angela Merkel dice: la mia visione per l'Europa è l'unione politica. Vista da lì, vista dal mondo economico internazionale, è la via? Certamente, ma di lungo respiro. Quello che continua a essere richiesto qui è una maggior chiarezza su quali saranno le nuove regole del sistema finanziario, perché c'è timore che queste regole blocchino l'attività. Addirittura il presidente e CEO di Goldman Sachs, Gary Cohn, ha detto: attenzione, se farete entrare delle regole come quelle previste dalla Dodd-Frank, quindi la Volcker Rule, la cosiddetta Volcker Rule, ci sarebbero problemi anche per le banche americane ad acquistare i bond. E quindi ci sono gli stati che chiedono i bond, ma le banche non potranno più acquistarle nello stesso modo, ci potrebbe essere una crisi di liquidità nel mercato dei titoli obbligazionari. E questo è uno dei timori. Tu hai seguito molto da vicino la crisi greca, stai seguendo anche la vicenda del Portogallo. Com'è sbarcata a Davos? Con molti timori, anche se ormai la crisi greca in qualche modo è stata archiviata. La maggioranza delle persone e dei consiglieri appunto di Angela Merkel o vicine alle, diciamo, alle maggiori cancellerie europee dicono: la Grecia non farà saltare l'euro. E questa già è un punto fermo importante, perché fino a qualche mese fa non era così detto. E l'Italia invece? L'Italia è vista con molto interesse. Tutta la tecnocrazia, quindi l'ingresso in campo di un tecnocrate come Mario Monti, è visto con molto interesse e molto piacere, perché tutti lo ricordano come Super Mario, quello che come commissario europeo aveva appunto dato molto spazio al mercato unico e in qualche modo aveva anche contrastato Bill Gates nel momento in cui appunto non c'era appunto concorrenza nel mercato comune europeo per questi suoi prodotti. Quindi c'è molta attenzione, molto interesse, e in qualche modo l'Italia potrebbe diventare un battistrada, un esempio anche per altri paesi che dagli ultimi della classe ai primi della classe, vedremo, l'occasione è quella. Dobbiamo anche aggiungere, così come ultima postilla, che lì a Davos è atteso anche il primo ministro David Cameron, che in tutto questo però potrebbe scompigliare le carte, perché almeno stando alle anticipazioni dovrebbe venire invece a chiedere più deregulation in seno all'Unione Europea. E questo David Cameron, qui si pensa che probabilmente andrà più a sciare che a partecipare, perché di regolamentazioni non ne vuole proprio sapere, perché vuole avere mani libere per la City e non vuole appunto che i capitali scappino da Londra per altre sedi meno regolamentate. Chissà se resterà quello che comunque è un seppur blando ottimismo che per la prima volta appare dal forum di Davos anche dopo l'arrivo di Cameron. Naturalmente vedremo, naturalmente ce lo racconterai ancora a Radio 24. Grazie nel frattempo per essere stato con noi anche a prima edizione, Vittorio Darolde del Sole 24 Ore. Buongiorno anche a te. Grazie a voi. L'appuntamento con lui è naturalmente con tutti gli altri, con tutte le altre notizie della giornata e anche per GR24 già da tra pochissimo e poi nel corso della giornata. Nel frattempo Peter Bescapè, Viola Bottoni in regia, da Anna Migliorati buona giornata ancora, ci risentiamo tra poco con le notizie di GR24.